Birgitta. Sentì montare il panico. Dove poteva aver perso le chiavi? Si voltò e tornò di corsa fino al cavo, illuminando il terreno con la torcia del cellulare. Ti prego, bisbigliava. Doveva lasciar perdere? Togliere il cavo, tornare a casa e dimenticare tutto? Le altre donne non sapevano chi era, non avrebbero mai potuto rintracciarla. Ma così non si sarebbe nemmeno liberata di Jacob. Cosa sarebbe successo ai gemelli una volta che lei fosse stata nella tomba? Non erano abbastanza forti, non erano ancora pronti ad affrontare la vita da soli. Birgitta tornò alla macchina e puntò la torcia all'interno. Le chiavi dovevano essere lì. Si guardò attorno in cerca di una pietra, la luce diretta sul bordo della strada. Ecco. Ne prese una e la soppesò in mano per poi allungare il braccio all'indietro e scagliarla contro il finestrino con tutte le sue forze. Il vetro esplose in una pioggia di schegge. Un attimo dopo Birgitta sentì un motore che si avvicinava. Si voltò. Sulla strada principale, un faro solitario aveva rallentato per svoltare nella sua direzione. Lanciò un'occhiata disperata alla macchina prima di inoltrarsi di qualche passo nel bosco. Il rombo del motore diventava sempre più forte. Nascosta dietro una roccia, vide la strada davanti a sé illuminarsi. Il cavo era invisibile, ma il veicolo si stava avvicinando ai due alberi a cui l'aveva fissato. Ancora pochi metri, Birgitta chiuse gli occhi. Quando li riaprì, vide la moto andare a sbattere contro un albero. Il fanale si spense e il bosco tornò a immergersi nell'oscurità. Birgitta allungò il collo, cercando di capire cosa fosse successo al guidatore. Era vivo? Non si sentiva nessun rumore. Il cavo aveva ceduto. Birgitta seguì le tracce di pneumatici nel bosco dall'altro lato della strada. L'uomo giaceva ai piedi di un albero, il corpo contorto, con le gambe e le braccia piegate ad angolazioni innaturali, come un omino disegnato da uno scolaretto. «Dio santo!» bisbigliò Birgitta. «Dio santo!» Si avvicinò lentamente, armeggiando sul cellulare con dita tremanti. Non riuscì ad accendere la torcia e si limitò a illuminare l'uomo con la fievole luce dello schermo. Un movimento del braccio le fece capire che era ancora vivo. Del sangue gli colava da sotto il casco. Birgitta abbassò il cellulare e mandò un grido. Un grosso ramo usciva dal petto del motociclista. Birgitta si portò una mano alla bocca. Doveva andarsene, e in fretta. Un quarto d'ora dopo era in preda al panico. Era riuscita ad accendere di nuovo la torcia e aveva cercato le chiavi dappertutto, ma a quel punto doveva ammettere che non erano da nessuna parte. Si sdraiò sulla pancia e guardò anche sotto la macchina. E se si fosse allontanata a piedi? Impossibile. L'autonoleggio aveva il suo nome. La polizia si sarebbe chiesta perché aveva lasciato il luogo dell'incidente. Forse poteva dire di aver perso il cellulare e di essere andata a cercare aiuto. No, sembrava poco credibile. Era tutto poco credibile. Avrebbero verificato che forse il cellulare era acceso nelle vicinanze, ma non poteva restare lì fino all'arrivo della polizia. O forse sì. Guardò la macchina, cercando di riordinare i pensieri. Se l'avessero trovata sul luogo dell'incidente senza che avesse chiamato la polizia, sarebbe sembrato sospetto. Rifletté un attimo, poi chiamò il 112. Si accovacciò accanto al corpo e sollevò la visiera del casco. Due occhi senza vita fissavano il vuoto. Qualcuno rispose al telefono. «Aiuto!» gemette. «Aiutatemi, è morto!» La voce di donna all'altro capo del filo era calma, efficiente. «Cos'è successo?» «Un incidente. Un incidente terribile».